La prossima canzone la dedichiamo a Ben Drew, a Wicked Apricots, a tutti voi che siete venuti stasera. Your life is just what you die. We've been gone from the other.